Aliena. Metti che domani ti alzi e non esisti per nessuno. Metti che si spegne il cell e ti chiamano in 31. Poi richiami scusa, allora mai chiamato, dimmi ora. Scusa, niente, già risolto, non mi serve allora. Metti che domani piove acido così, inizierò a vendere trip, altro che fare l'MC. Mi direbbero che tossico, tossisco rap in vena. Metti che ti volti G, ti passo in rima aliena. Metti in Vaticano ed ecco edasa all'istante. Butto in studio tutti i soldi nella sede vacante. Mentre i tuoi studiosi cercano di capire grigi, ne facciamo gemme in piazza davanti a Palazzo Chigi. Metti pezzi a posto nel tuo posto alienazione. Posta prioritaria da un'altra costellazione. Mettiti a sedere sedato ed il risultato è che ti sveglia la mamma perché gridi spaventato. Mettiti e dopo smettiti e dopo ammetti che non c'è merda più spessa di così. Rima aliena, geroglifico inciso sul CD, non col masterizzatore ma con un chiodo così. Pensaci e dopo chiediti come mai sti qua non muoiono manco col DDT. Siamo presi così con la sindrome da MC. Venite sul nostro pianeta pure rimanete qui. Metti che la razza umana non esistesse. Metti che ogni giornata passasse in un colpo di tosse. Metti che metti la testa a posto. Allora metti che menti soltanto a te stesso. Metto da parte i soldi per gli spray e lo studio. Metti che ci esco e spendo tutto per il vizio. Mettiti te che ti metti al mio posto. Non guardarmi dall'alto mentre io ti guardo dal basso. Metti che fosse il pianeta delle scimmie, pure ascolta i rima aliene e dopo tira le somme. Metti che fosse già l'ora di morire. Allora l'ora di lasciare sto momento da scolpire. Vivi come fosse l'ultimo fiato a disposizione. Pensa come se la vita non dovesse mai finire. Densa come una merda colazione. Rima aliena la pozione, prenditi la tua porzione. Mettiti e dopo smettiti e dopo ammetti che non c'è merda più spessa di così. Rima aliena, geroglifico inciso sul CD, non col masterizzatore ma con un chiodo così. Pensaci e dopo chiediti come mai sti qua non muoiono manco col DDT. Siamo presi così con la sindrome da MC. Venite sul nostro pianeta pure rimanete qui. Mettiti e dopo smettiti e dopo ammetti che non c'è merda più spessa di così. Rima aliena, geroglifico inciso sul CD, non col masterizzatore ma con un chiodo così. Pensaci e dopo chiediti come mai sti qua non muoiono manco col DDT. Siamo presi così con la sindrome da MC. Venite sul nostro pianeta pure rimanete qui.